Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Rivolgo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con decisione e prontezza onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri che cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre, cercano una vita migliore, cercavano la felicità. Sono di parola, come avevo promesso nella precedente puntata. Oggi continuo a parlare della tragedia del mare avvenuta al largo della Libia, ma con un tono diverso. Cosa ho fatto? Ho semplicemente, nella puntata precedente, fatto ascoltare un timer che dava un clock ogni secondo e quel segnale determinava che era il ricordo di una vita umana che è sprofondata nel mare. Tante vite umane, tanti click vi ho fatto sentire nella precedente puntata e mi sono sforzato per quanto possibile di far riflettere il pubblico senza che si improvvisi come fossero tutti commissari tecnici di una nazionale di calcio, allo stesso tempo diventano grandi strateghi, organizzatori movimenti di immigrazione, ognuno aveva le sue soluzioni, ma sono riuscito in qualche maniera a far riflettere che delle vite umane sono tragicamente finite in maniera repentina, in maniera improvvisa, anche se molto annunciata, in maniera selvaggia. Oggi riflettiamo cosa c'è prima, cosa c'è dopo, cosa ci sarà dopo, cosa c'è durante questo flusso che ci attraversa come ci sta attraversando un momento della storia. Prima di dare voce alle persone che aggiungeranno degli elementi concreti e razionali a quella che era soltanto un mio punto di riflessione, la telefonata con cui ho terminato la precedente puntata, la telefonata di un marinaio, di un uomo di mare che ha raccolto i cadaveri. Buongiorno Nicoletti, io volevo esprimere il cordoglio e soprattutto la vicinanza a tutti gli operatori marittimi, perché abbiamo vissuto, sono un marinaio, esperienze terrificanti in quei giorni che abbiamo prestato servizio. Lei ha operato in situazioni come questa? Esatto, da civile. Ecco, vuole spiegare mentre mandiamo gli ultimi click cosa si vede, cosa accade, qual è la cosa che le è più rimasta impressa di quel momento? Lei immagini una giornata di pesca allo spada, ricca, sei felice, e poi comincia a venire su qualcosa che è quello che lei ha detto. Non lo dica. E se solo fossero... Non lo dica, sennò la gente non si rende conto. Farei retorica. No, non fa retorica. Voglio che la gente capisca quello che accade. Lei ha detto una tonnellata di cadaveri. Se sono 700, saranno una cinquantina di tonnellate di cadaveri. Non so se le persone hanno mai visto un morto affogato. Poi puoi avere pelle diversa, usi diversi, cioè i marinai sono uniti da una regola: in mare la vita è sana. Forse le persone che stanno in città queste cose non le capiscono. E sono vicino, commosso, come tutti i miei ragazzi qui a Civitavecchia, per i nostri colleghi in Sicilia o a Malta. Bernardino Guarino, buongiorno. Salve, buongiorno. È direttore del centro Astalli. A Catania il centro Astalli è un punto di riferimento per i rifugiati che arrivano appunto nel territorio siciliano. È un'associazione che fa fronte a diverse problematiche connesse alla fase di primo arrivo di chi spesso ha rischiato la vita in mare. Tra le tante telefonate che mi sono arrivate, molti sono sicurissimi e certi dell'idea che l'azione lapalissiana che andrebbe fatto è impedire che escano al loro paese, affondare le navi prima che partano, affondarle nei porti, mettere addirittura, una signora ha detto, mandiamo degli sms gratuiti da parte delle nostre società telefoniche dove li avvertono, guardate che in Italia si muore, e via dicendo. Questo tipo di lettura che ho raccolto dal pubblico medio della radio, quindi dalla media cognizione italiana, quali sono i punti di caduta secondo lei, o i punti di saggezza, se ci sono? Ma sono soluzioni assolutamente improponibili, perché noi parliamo di persone come ad esempio i siriani o gli eritrei che scappano da guerre, conflitti, violenze spesso subite direttamente, persone che vogliono mettere in salvo se stessi e spesso le loro famiglie e i loro bambini, che certamente non si fermano davanti a una strada difficile perché non hanno nulla da perdere. L'unica cosa sensata è quella di dare una risposta a queste persone, cioè come farle arrivare in sicurezza in luoghi dove effettivamente loro possono ricominciare. Io ho fatto un paragone. Sì, ho fatto un paragone, ho detto è come se voi vi trovaste in un palazzo incendiato, avete le fiamme alle spalle, l'alternativa unica, piuttosto che essere bruciati, e buttarvi dalla finestra, è chiaro, vi buttate dalla finestra. È un paragone calzante? Assolutamente sì, ma guardi, basta guardare e rileggere la storia delle migrazioni, soprattutto delle migrazioni forzate, che sono tutt'altra cosa rispetto a una migrazione economica dove uno può pianificare, può decidere. La migrazione forzata viene subita, bisogna sempre ricordare che queste persone hanno lasciato tutto quello che avevano, casa e affetti, e per fare questo fanno un viaggio dove molto spesso sono soggetti a violenze e a torture. Di fronte a questo io credo che alcune soluzioni non andrebbero neanche prese in considerazione. Del resto poi c'è il diritto internazionale, noi non possiamo non che dare loro accoglienza. Ecco, altra ipotesi che mi viene fatta, cioè sì, ma cosa facciamo? Riempiamo l'Italia di stranieri? Può essere così alla fine? Certamente questa è un'osservazione che è sensata. Purtroppo l'Europa di fronte alla questione delle migrazioni forzate non ha assolutamente una posizione, è come se ci fosse un condominio di 28 realtà, 28 paesi, ognuno ha una sua idea e per questo non si fa nulla, ma il futuro non ci aspetta, il futuro già cammina. Stare fermi è comunque dare un'assoluta prova di incapacità. Se non saremo in grado di trovare una posizione unitaria, chiamiamo in causa le Nazioni Unite, è l'unica cosa sensata che possiamo fare. Certo, l'Europa fa spallucce, l'Italia è proprio il convergere di un grosso imbuto che parte dall'Africa e va a finire sulle nostre coste. Certamente. Loro possono anche far finta di niente, ma noi no. Certamente, noi abbiamo proposto tre cose immediatamente. Innanzitutto, in questo momento non si può che aumentare l'operazione di ricerca e salvataggio, altrimenti noi assisteremo veramente a un'ecatombe. Ieri c'è stato anche un altro naufragio a Rodi, quindi non so quando noi metteremo in campo dei mezzi adeguati a quello che sta accadendo. Voi come la vedete sul passaggio, perché i grandi espertoni da Bar dello Sport, che ho raccolto anch'io, dicono sì, ma se avessimo continuato Mare Nostrum non sarebbe accaduto, oppure è colpa... Guardi, diciamo... una grossa sciocchezza dimostrata dai numeri. Nei primi mesi del 2015 abbiamo avuto un numero di arrivi assolutamente uguale a quello del 2014. Nel 2014 c'era Mare Nostrum, nel 2015 no. Le persone non si fermano per colpa di alcune norme che i singoli stati possono fare. Quando le persone scappano, scappano e basta, quindi non sarà né Mare Nostrum, né la Bossi-Fini, né alcuna altra cosa che li fermerà. Metterli in sicurezza è l'unica cosa sensata. Bisogna ragionare insieme su come si può arrivare a questo. Dove, diciamo, nella migliore delle ipotesi, queste persone che alle spalle hanno soltanto la certezza di essere uccise, massacrate, perché non gli rimane altro che perdere la vita, hanno già perso tutto, qual è la loro speranza? Si impegnano gli ultimi loro averi, salgono sul barcone, vengono picchiati, uccisi, stuprati, comunque loro sperano di arrivare in Italia, poi cosa pensano di poter fare? Ma loro, soprattutto per esempio nel caso dei siriani, che è un caso eclatante che nessuno di noi può mettere in discussione per quanto riguarda, diciamo, la legittimità, no, di questa fuga, nel caso dei siriani parliamo spesso di famiglie anche che nel loro paese erano benestanti, di un certo livello culturale, quindi loro fanno dei ragionamenti molto sensati sul loro futuro, anche in un momento di grossa difficoltà, di grossa crisi. Ecco, scusi, questo è un altro luogo comune da sfatare, non si tratta soltanto di derelitti totalmente privi di un background. background culturale che vanno allo sbaraglio. È gente esattamente come io e lei che parliamo, che vengono dalla Siria, che ha avuto tempi in cui era un paese in cui le persone studiavano, elaboravano pensiero, avevano professioni uguali alle nostre. Quindi non è che vanno proprio allo sbaraglio e basta l'SMS sul telefonino per fargli capire che non devono venire in Italia. Tant'è vero che proprio perché loro sono ben coscienti anche delle occasioni di futuro che i vari paesi offrono, che molti di loro non vogliono stare in Italia e hanno raggiunto paesi del nord Europa come la Germania, come l'Inghilterra, come la Svezia. Anche questo è un luogo comune da sfatare. Sono arrivate l'anno scorso in Italia 170.000 persone, ma ne sono rimaste solo 60.000, quindi le altre si sono distribuite nel resto d'Europa. L'unico problema è che questo avviene senza una regolazione, senza un regolamento. Ecco, l'Europa deve cercare di disciplinare questi arrivi. Ecco, dal suo punto di vista, per quello che può contare, non vogliamo sostituirci alle menti pensanti o istituzionali, dove nasce il problema? È un atteggiamento proprio del nostro paese che non lo affronta seriamente, o noi abbiamo fatto tutto il possibile, in realtà è l'Europa che su questo dice beh, sono fatti degli italiani, in fondo le coste sono le loro, semplifico naturalmente. Certamente, certamente c'è un fatto tutto italiano e un fatto diciamo molto europeo. Il fatto italiano è che negli ultimi anni si è perso molto tempo, praticamente solo negli ultimi 4-5 anni si è cominciato ad affrontare seriamente il tema dell'accoglienza dei rifugiati, quindi qualche ritardo ancora lo paghiamo, però oggettivamente abbiamo fatto tanto nell'ultimo periodo, tra Mare Nostrum e l'ampliamento del sistema di accoglienza non possiamo dire che siamo stati con le mani in mano. L'Europa invece fa spallucce, l'Europa oggettivamente non riconosce l'Italia come una frontiera di arrivo e quindi diciamo non, sembra quasi che questa cosa non li riguardi. Ecco, su questo noi dobbiamo farci sentire di più, anche interrompendo alcuni trattati come la Convenzione di Dublino che ci impongono di accogliere nel nostro paese tutti quelli che arrivano. È una convenzione che ormai non funziona più, perché certamente non si può pensare che noi ospitiamo tutte le persone che in questo momento arrivano dalla Libia, allora bisogna avere il coraggio di far decadere anche questi trattati. Ci fermiamo un istante, devo dare le informazioni per il traffico. Mi sembra di capire che in realtà la metafora del condominio che ha fatto lei è perfetta. È come se il guasto alla tubatura dell'acqua che allaga casa ce l'ha soltanto il condomino che sta al piano terra. Chi sta all'ultimo piano nel superattico dice sono fatti i suoi, finché l'acqua non arriva alle mie caviglie probabilmente posso anche fare spallucce. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Ma quali disperati, se in Africa hai $2,000 per pagarti il viaggio sei un signore. Vengono per delinquere, si ubriacano e sfruttano il welfare. Questo è uno dei messaggi che mi sono arrivati dopo la prima fase di questa mia attenzione al problema. In questo momento mi sembra più drammaticamente all'attenzione di chiunque faccia informazione. Alberto Salsa, buongiorno. Buongiorno. Antropologo, ha scritto vari libri, è stato spesso nostro ospite, ne ricordo qualcuno, Niente, come si vive quando manca tutto, Antropologia della povertà estrema. Conosce benissimo l'Africa e è uno studioso del sistema, dell'equazione, del riuscire a vivere senza niente e della, se possibile, ponderazione di quanto noi abbiamo tantissimo rispetto a chi non ha nulla. Su questo messaggio che mi è arrivato, se non hai $2,000 per pagarti il viaggio, quindi sei un signore, quindi vieni qui che sei un signore. Come la vedi? La vedo in questo modo, se la vita fosse sacra soltanto in mare sarebbe un guaio. Il guaio è che il problema è a terra anche. Queste persone attraversano una quantità di territorio sterminato rispetto al Mediterraneo. Chi viene mandato, e dico mandato, è una sorta di investimento familiare. Ecco dove saltano fuori $2,000, saltano fuori da una colletta di gente che decide scientemente di rimanere in situazioni tragiche per poi poter sfondare quelli che noi chiamiamo confini, ma che ormai sono diventati liquidi. Se fosse vero che ci deve essere una prima accoglienza, non si capisce perché il paese Sudan vicino all'Eritrea non debba accogliere gli eritrei che vanno in Sudan. Quindi l'idea stessa di bloccare un flusso del genere che è basato su non un'improvvisazione momentanea, ma proprio su un modello di pensiero che è quello di sfuggiamo a condizioni drammatiche tremende per poter arrivare dove qualcuno a delle situazioni che ci possono accogliere. Quindi sono delle teste di ponte di un piccolo clan, di una famiglia che investe per mandare uno a gettare il primo approdo dove può tirarsi dietro gli altri, se possibile. Questo direi proprio di sì, anche il fatto stesso che in Libia ci siano delle reiterate richieste di denaro. Io conosco delle persone che sono state comprate e vendute tra i confini 7 volte prima di poter salire su un barcone. La parte barcone, che è quella che ci riguarda direttamente perché noi vediamo soltanto davanti al nasino, è quella minore rispetto a tutto quello che è successo prima. Noi non vediamo le ossa che tappezzano il deserto oramai durante la traversata. Tutto ciò viene ben compreso dai migranti ed è strano come la voce di queste persone non arrivi quasi mai, cioè non ci sono degli studi approfonditi sui racconti di queste persone. Ci accontentiamo di parlare tra di noi, sento anche qua che manca in fondo un migrante che dica la sua, ma la situazione africana è tale per cui laggiù i confini sono esplosi, da noi stanno esplodendo e sono diventati liquidi, non c'è più niente da fare. Ecco. Un antropologo osserva, studia, non dà soluzioni naturalmente, ma se tu dovessi tracciare questa sconosciuta e singolarissima epica di un migrante, puoi riassumerla in 2 punti, dalla situazione familiare, dalla decisione, dalla situazione di partenza e dalle varie fasi fino ad approdare al barcone. Chi dice affondiamo i barconi semplicemente interviene sull'ultima fase, quella estrema, che un po' non cambierebbe molto, le persone ormai lì sono arrivate, potrebbero marcire su una spiaggia o finire comunque nell'ultima tappa prima dell'imbarco. Ma innanzitutto partono dall'Africa più subsahariana, quella più nera, diciamo così, quella anche più colpita da carestie, guerre varie, partono le persone più intelligenti, vengono veramente selezionate, almeno quelle che ho incontrato io sono persone estremamente in gamba, con una resilienza formidabile. Quindi esattamente l'opposto di chi dice vengono delinquenti incalliti, non è questo caso, ci saranno pure, non dico di no, certamente. Non è questo caso. Non è questo caso, probabilmente lo diventano lungo il viaggio, c'è gente che è talmente accorta da far finta di essere islamico per tutto il tragitto e poi riprendere il proprio nome appena sbarca in Italia. C'è uno che mi ha raccontato un somalo che ha fatto il giro dal Sudafrica ed è stato molto contento e dice perché così ho incontrato un sacco di tribù diverse, molto strane. C'è proprio un meccanismo di trasportarsi lungo il percorso con estrema attenzione, ma è la meta quella che conta, e tutto ciò che è in mezzo non conta più, cioè si passano confini con documenti falsi, si pagano trasportatori via terra, ed è curioso come invece la tragedia sul mare colpisca. Parlavo con un gruppo di somali davanti a una signora italiana, la quale disse: poi avete preso il barcone? Sì. E com'era? Beh, eravamo nella stiva, eravamo in 35, e com'era? Beh, eravamo seduti su delle panchette, ma sempre sotto, per quante ore? 36 ore, oh mio Dio, come avete fatto a resistere? E gli altri l'hanno guardata: signora, ma se arriviamo attraverso il Sudan, voglio dire la Libia, forse quelle 36 ore sono state nulla. Abbiamo una percezione molto particolare. Quello che sostengo è che coloro che arrivano qua hanno un'esperienza del futuro, non hanno un'esperienza che non ci riguarderà. Questi movimenti sono il presente e diventeranno sempre più potenti, sempre più efficaci con la destrutturazione continua dei confini. I confini che non stanno più in piedi, non hanno alcun senso. Gli stessi eserciti jihadisti colpiscono al di là di confini che sono diventati liquidi, rientrano i nostri di seconda generazione, tornano qua. Non abbiamo nessuna possibilità di contrastare il fenomeno, possiamo solo pilotarlo, quello dobbiamo farlo per le persone umane. Bernardino Guarino, ricordo direttore del Centro Astalli, che è un centro che è un punto di riferimento per i rifugiati che arrivano almeno in Sicilia. Chiudo con un messaggio forte: basta immigrazione, ne abbiamo i coglioni pieni. Ecco, può anche essere, ci sta tutto, ma se voi aveste delle soluzioni o degli atteggiamenti più saggi, piuttosto dire ne abbiamo le scatole piene, perché ne avremo sempre più piene, probabilmente ce le frantumeranno, ma qual è un saggio proposito, se fosse possibile mai che lei fosse ascoltato a livelli di operatività maggiore? Ma quello di non parlare più di accoglienza, ma parlare, come è stato accennato anche prima, di quello che sarà, del futuro, che noi certamente vivremo insieme con persone che arrivano da altri posti. sono anni che noi continuiamo a parlare di quanti ne arrivano e come arrivano e non costruiamo una convivenza possibile, soprattutto non costruiamo una società che sia capace di sfruttare, tra virgolette, il capitale umano che queste persone rappresentano. Siamo tra le pochissime realtà europee e moderne che non fanno questo e pagheremo questo nostro errore e questa nostra inefficacia. Grazie Bernardino Guarino, grazie Alberto Salza. A domani.